Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E quello che accadde nell'aprile del 2006, in onore della sua memoria, fu ripreso anche dai giornali. Senza la collaborazione di tutti non ci sarei mai riuscito e la mia idea sarebbe rimasta semplicemente un'idea. Chiamo Luigi e sono nato e vivo a Milano. Ho 44 anni, opero nel campo della comunicazione. Sono sposato, ho una figlia, si chiama Greta. Immaginatevi una sera di fine primavera, una di quelle in cui il tempo è bellissimo, le giornate sono molto lunghe, però ancora avete da lavorare il giorno prima e il giorno dopo. Immaginate di avere voglia di riascoltarvi alcuni degli oltre 200 racconti che sono arrivati al programma che ascoltate, magari anche solo saltuariamente, tutti i giorni alle 16 su Radio24. E immaginate che quella sera non abbiate niente di meglio da fare. Prendete la macchina, prendete il treno o la bicicletta se siete a Milano e venite in via Monterosa 91 martedì 19 giugno alle 21, perché quella serata c'è, è il live di questo programma in cui racconto i racconti che voi avete preferito all'interno di quest'annata, a partire da settembre ad oggi, e lo faccio appunto in non più di un'ora e mezza. A me piacerebbe fare un'ora e un quarto, però magari rimaniamo entro l'ora e mezza, altrimenti poi ci si annoia ed è sempre meglio andare via quando se ne vorrebbe ancora un po'. Per iscrivervi a quella serata, per prenotarvi, andate sul sito di Radio 24, in fondo alla pagina trovate tutte le informazioni necessarie cliccando sul Voi siete qui live 19 giugno ore 21 presso Radio 24 a Milano. Registrati subito, ho letto quello che c'è scritto nel boxino. Si apre una piccola paginetta, la compilate, la inviate e vi stampate quel foglio. E il 19 vi presentate con quello, è tutto gratuito e ho scoperto oggi che è ufficiale, c'è una sorpresa per tutti quelli che ci saranno, è una sorpresa molto gradita, che essendo una sorpresa non ve lo posso dire, però renderà concreto quello che al momento è solo... Paolino fa così, lo devo dire? No, non lo posso dire, è una sorpresa, quello che al momento è ancora solo etereo o magari nei vostri computer. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Se avete voglia di votare il racconto che avete preferito, basta anche mandare una mail. Io nel frattempo ogni tanto ne ripesco qualcuno dall'archivio del programma e vi rinfresco la memoria. Vi faccio sentire uno che è andato in onda martedì 4 ottobre, l'aveva mandato Silvia e si intitola Laurearsi a luglio. Penso che sarà un periodo che ricorderò, e lo ricorderò come un bel periodo. La mattina mi sveglio presto, vado in biblioteca passando dal ponte sull'Adige. Verona è bella a fine maggio, alle 8 del mattino. Ti fa venire voglia di vivere. Si respira con la sensazione che solo la mattina presto, nelle giornate estive, puoi assaporare fino in fondo. Quella sensazione speciale quando le strade non sono né piene né vuote. Vedi gente affaccendata ma non troppo stressata. E ti viene da sorridere, a tutti. E allora faccio così, sorrido, anche se qualcuno ricambia con uno sguardo sospettoso. No, non sono pazza. È che in questo periodo un po' continuerei a sorridere e un po' piangerei, senza smettere più. Ecco, questo racconto ce l'aveva mandato Silvia, che se ricordo bene era a Londra quando l'abbiamo sentita, credo stia facendo l'Erasmus o sia là per lavoro, e ricordava appunto le mattine dell'estate prima in cui si stava laureando, e questa era la storia di una ragazza di 23 anni che stava affrontando uno degli spartiacque della sua vita. Le storie però erano tantissime, sono tantissime. Se volete risentire, vi ripeto, quelle storie che vi hanno commosso, quelle che vi hanno divertito particolarmente, potete votare attraverso quel form, quel boxino che trovate sul sito di Radio 24, magari mandando anche una mail a voi siete qui @radio24.it. Veniamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi è una puntata delicata perché nemmeno delicata, è una puntata particolare, ma nemmeno particolare. Allora, semplicemente è una puntata che racconta la storia di un amico del protagonista, dell'autore di questo racconto, che si è tolto la vita. C'è una prima parte che è abbastanza dolorosa e una seconda parte che invece ha a che fare con una forma di rinascita, almeno nella memoria degli amici, attraverso un evento per commemorare questa persona. Se avete voglia, come qualcuno ha già scritto, di raccontare il modo, l'evento sportivo, il trofeo, l'evento teatrale, il modo in cui avete cercato di esorcizzare la mancanza di una persona cara, Chiara, inventandovi un modo per commemorarlo, 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Questa storia è una storia in realtà particolare perché ha avuto anche un riscontro quando è accaduta sui media, sui giornali e non solo locali. L'ha creata, l'ha vissuta e l'ha scritta Luigi. Avevo appena terminato una riunione di lavoro. Era il 18 settembre del 2000, un lunedì. Milano è triste, anche quando c'è la luce. Quel pomeriggio di settembre, un mese che si potrebbe tranquillamente togliere dal calendario, il sole se n'era già andato via. Riaccendo il cellulare mi fumo una sigaretta, lì, sul marciapiede, fuori dall'hotel, con un collega. Quanti secondi mancano alla telefonata che ricorderò per tutta la vita? Non lo so, intanto parlo di lavoro. Forse sorrido per una battuta. E poi squilla il telefono. Pronto Luigi? Fernando si è suicidato. Quando? Chiedo a Martino dall'altra parte del telefono, che dopo quella frase è rimasto in silenzio. Ieri pomeriggio, mi dice. Saluto Martino e guardo il mio collega come fosse la persona più importante della mia vita. Un mio amico è morto, gli dico. Il mio collega non risponde, sembra perplesso, e poi chiede: come? Ecco, in quel momento io mi pento di averglielo detto. Mi sembra di fare un torto a Fernando, di violare un segreto. E allora cambio discorso, parlo di lavoro, e allora lui sembra più disteso, meno imbarazzato. Sicuramente pensa che non doveva essere poi un grande amico se io mi metto subito a parlare d'altro. Mentre poi ormai solo mi dirigo verso la fermata della metropolitana, ricordo l'ultima volta che ho visto Fernando, proprio una settimana prima. Era il compleanno di Martino, tutti insieme per un brindisi in un locale fighetto di Porta Romana. Come stai? Gli chiedo appoggiato al bancone nel vociare confuso. Sto che voglio morire, mi dice. Sì, lo ricordo bene, rispose proprio così. Il tacito accordo tra noi amici era quello di minimizzare. Forti dell'esperienza precedente, ci cullavamo all'idea che in realtà non era vero. Fernando non desiderava morire. Lui era una delle persone più intelligenti che io abbia mai incontrato, con un senso of humor pazzesco, cioè io veramente rido poco, quasi mai. Lui però era in grado di trovare una battuta anche nel momento più tragico. Se posso esprimere un piccolo pensiero sull'amicizia, è questo, cioè l'amicizia dura anche dopo la morte. Fernando è la persona che mi ha fatto più ridere in vita mia. E di solito io rido poco, eh. Mi fanno ridere solo alcuni film italiani. Ed ecco, c'è una scena di Amici miei in cui Paolo Stoppa, che fa un vecchio cinico, fa uno strozzino e che ha in pugno Tognazzi, davanti all'avvertimento dei mitici amici che gli dicono «Occhio perché il Mascetti potrebbe fare un gesto insano», ecco, Paolo Stoppa esclama «Dicono tutti m'ammazzo, ma poi non si ammazza mai nessuno». Ecco, quella sera all'aperitivo andò così. «Come stai, Fernando?» Sto che voglio morire. Beh, cerca di fare le cose per bene questa volta. Gli dissi proprio così. Potrei dirvi che l'ho detto per smuoverlo, che a Fernando piacevano le battute cattive, che lui era il maestro del cinismo intelligente. Ma ciò non cambia la realtà. Questa è stata l'ultima frase che io gli ho rivolto e me la porterò dentro per sempre. Lui si è limitato a un sorriso quasi impercettibile. Al funerale c'eravamo tutti. Quando siamo arrivati al cimitero è iniziato a piovere. Una pioggia rarefatta, polverosa. Abbiamo camminato tantissimo. Quando siamo arrivati la bara era già calata. In quel momento ho seriamente pensato alla possibilità di vedere uscire Fernando che diceva «E voilà!». Poi invece la terra ha coperto e ce ne siamo andati. Poi il tempo ha continuato a strisciare. Fernando se n'è andato. E se n'è andato in quel periodo della vita in cui si inizia a lavorare o si sta cercando di finire l'università. Il gruppo si è sfaldato. Ci incontriamo ogni giorno per la messa di suffragio. Ormai siamo estranei e quando usciti dalla chiesa andiamo in pizzeria non si respira più la complicità di un tempo. Se non ci fosse il 17 settembre non ci incontreremmo più. Non lo so, forse sono troppo severo. Siamo stanchi, carichi di responsabilità e l'amicizia a volte può essere un peso insopportabile. Eppure basta una scintilla per ricomporre il gruppo. E quello che accadde nel 2006, in onore della sua memoria, fu ripreso anche dai giornali. Senza la collaborazione di tutti non ci sarei riuscito. E la mia idea sarebbe rimasta semplicemente un'idea. L'idea mi era guizzata nella testa mentre camminavo lungo un marciapiede. Era inverno e Milano, come sempre, andava via. L'idea mi venne sotto forma di desiderio. Come sarebbe bello se in questo momento trovassi per strada un libro che parla di me. Il titolo doveva essere La persona che trovò un libro per strada. E il nome dell'autore, anonimo milanese. Decisi di chiamare il progetto Operazione Fernando. L'intera operazione doveva essere un atto di amore per il nostro amico. I mesi successivi, una volta ogni 2 settimane, ci trovammo tutti noi amici per pianificare l'azione. L'idea era quella di stampare migliaia di copie e gettarle letteralmente lungo i marciapiedi. Ovviamente davanti a obiettivi sensibili come università, redazioni radiotelevisive e di quotidiani. La prima pagina del libro, a parte una piccola scritta, è tutta bianca. E la piccola scritta è a Fernando. Quel giorno di aprile, sin dalle prime ore del mattino, divisi in squadre, gettammo migliaia di copie. Sembravamo contadini che seminano. Eravamo di nuovo uniti e non era il 17 di settembre. Allora, abbiamo stampato 4.000 copie di questo libro, ci siamo divisi in squadre con una logica quasi militare. Abbiamo iniziato alle 4 di mattina perché non volevamo che ci vedessero e abbiamo letteralmente gettato questi libri, ovviamente davanti a obiettivi sensibili, radio, università, teatri, cinema. Lo so, gettare un libro per terra è un gesto forte, forse un po' polemico. Ecco, se fosse una storia inventata mi piacerebbe chiuderla con la frase precedente. La realtà però è che mi guadagno da vivere con un'agenzia di comunicazione e la notizia, senza alcun intervento da parte mia, ma spinta semplicemente dalla sua forza, trova spazio su diversi quotidiani. E uno dei miei amici, che pure aveva partecipato, subito dopo mi accusò di aver sfruttato il nome di un amico per farmi pubblicità. E forse è stato l'unico ad aver avuto il coraggio di dirmelo in faccia. Quando la madre di Fernando venne a sapere della famosa operazione, mi scrisse un biglietto. Un biglietto per esprimere il suo grazie a tutti gli amici del figlio. Lei ha perfettamente compreso lo spirito di questa piccola avventura e il dolore più grande oggi sarebbe per lei quello di non vederci più il 17 di settembre, perché significherebbe che abbiamo dimenticato Fernando. Da allora sono trascorsi altri 6 anni. Il prossimo 17 settembre scoccherà il 12° anniversario. Noi stiamo invecchiando, mentre Fernando, che era il più grande, continua a sorridermi con i suoi 30 anni, dalle foto che ogni tanto mi capitano tra le mani. Quando Fernando è andato via, mi sono arrabbiato con lui. Poi con me, per la frase che gli ho detto e per la mia assenza. Quando si decide di lasciare la vita di propria volontà, tutti sono presi dai sensi di colpa. Adesso ho fatto pace con lui e con me stesso. Gli chiedo consigli, ogni tanto lo prendo per il culo. Alcune notti mi capita di sognarlo e sono sempre sogni sereni. E se ho scritto questa storia, il motivo è ancora lui. I waited here all by myself. The room was dark and it smelled like sulfur. I heard the screams from way down in the darkness. Felt pretty sure my life was over. C'è qualcuno che dedica i libri agli amici e qualcun altro che invece li dedica i dischi, in questo caso non all'amico ma al nonno, scrive Dario. Io ho fatto un disco acustico per il mio nonno, grande Mario, firmato Dario. 349-238-6666, qualunque sia stato il modo con cui volete ricordare o far ricordare una persona cara che non c'è più, un modo che magari vi siete inventati e non avete mutuato da qualche altra parte, 349-238-6666. È indubbiamente originale al punto da finire sulle pagine di un giornale il modo in cui Luigi ha deciso di ricordare Fernando. Pronto Luigi? Ciao Matteo, ciao a tutti. Come stai? Bene, e voi? Mi dai del voi o parli della redazione? No, voi, perché ti rispetto tantissimo. noi tutti bene, direi. Stiamo okay. Tutti bene. Tu verrai il 19 qui a seguirti certo. Il live. Magari smazzo per terra un po' di libri, così. Ecco, giusto. Parliamo di questa operazione. Allora, innanzitutto, Luigi, so che tu non hai voglia di parlare del lavoro che fai, non vuoi farti pubblicità e non te la farò. Però voglio capire, insomma, più o meno qual è il tuo lavoro, nel senso che è chiaro che un'idea così viene a una persona che ha a che fare con le idee e con probabilmente anche il fatto di far sì che se ne parli di quella cosa. Tu che cosa fai più o meno a grandi linee? Sì, più o meno a grandi linee ho una casa editrice che si occupa, oltre insomma stampare carta, anche di organizzare eventi, per cui insomma diciamo che questo è l'ambito in cui mi muovo. D'altronde io dico sempre che l'editoria è in crisi nel momento in cui Gutenberg inventò la stampa a caratteri mobili. Viviamo un periodo delicatissimo per il libro, ne decretano tutti la morte ogni anno, e lui continua lì a rimanere bello imperterrito. Senti, io credo comunque che rimarrà. Ma tra l'altro, e poi chiudiamo e torniamo alla storia, però sentivo che dire da soprattutto al Salone del Libro, le persone che sono dentro quel mondo lì, che in realtà il problema dell'editoria non sono gli ebook, non è che quelli hanno tagliato le gambe alla carta stampata. Io penso che il problema del libro è che la gente non legge. Però tu mi insegni che il problema dell'editore non è tanto far leggere ma far comprare il libro. Io poi appunto da questa idea un po' folle, un po' originale, un inciso, è stata un'idea per me intelligente, ma perché era intelligente l'amico che volevamo sì. Commemorare. Se Fernando fosse stato un cretino mi sarebbe venuta in mente un'idea cretina, per cui io penso che il modo di ricordare sia collegato anche al tipo di persona che si vuole ricordare. Senti, ha avuto senso, nel senso che appunto oltre alla madre, cioè, ha avuto senso per voi, mi sembra di capire, che in qualche modo vi ha riunito prima e poi sì, a parte sì. Qualche screzio. Ha avuto senso da che punto di vista, Matteo? Ha avuto senso per il fatto che lo avete ricordato e l'avete fatto ricordare attraverso questa operazione, oppure... Sì, diciamo che comunque l'originalità della storia si è guadagnata uno spazietto su qualche quotidiano. E da lì poi appunto, come ti ho scritto, se fosse un falegname intaglierei legno, se fosse un pittore dipingerei, sono bravino nella comunicazione, mi sono inventato questa cosa, poi è stato un frutto dal quale sono germogliati dei prodotti con cui guadagno il pane, questo lo dico, e dico anche grazie a Fernando, mi hai fatto venire in mente questa idea. Senti, quando ti viene in mente Fernando, in che occasioni? Beh, Fernando mi viene in mente direi quasi ogni giorno, perché è una personalità talmente non forte ma bella, enorme, poi non so, un minuto era un secolo, un minuto, cioè ecco perché io dico che il tempo non è un buon parametro per giudicare un'amicizia. Spesso sento siamo amici dall'infanzia, poi magari ti trovi in difficoltà e l'amico d'infanzia scompare e magari invece il tuo migliore amico diventa lo sconosciuto che hai incontrato sul treno. Senti Luigi, poi ti saluto, mi dici cosa stai lavorando adesso? Adesso ho scritto un romanzo di cui non voglio dire il titolo per evitare commenti. La casa editrice esiste, non ho dovuto pagare per scrivere, qui c'è questo piccolo motivo d'orgoglio. Sta andando bene, non lo pubblico io perché la mia casa editrice si occupa di editoria specializzata, marketing e comunicazione. Senti Luigi, ti ringrazio molto, ti aspetto qui martedì. Grazie per lo spazio. Come? Grazie a voi per lo spazio. Ma figurati, grazie per la storia. Ci vediamo il 19. Ciao Matteo. Ciao Luigi, grazie mille. E Anna mi scrive: noi ricordiamo il mio babbo mancato nel 2011 andando a cena fuori, come piacerebbe fare a lui. Voi siete qui. Luigi non ci ha mandato una foto, non ci ha mandato la sua foto e nemmeno quella di Fernando per raccontarci della sua storia, per raccontarci meglio di questa operazione. Ci ha mandato la copertina del libro. La copertina del libro è nera e ha il titolo, che è la persona che trovò un libro per strada firmato da anonimo milanese, che è scritto due volte sopra e sotto, ma al contrario. Forse non mi spiego bene. È scritto in modo che comunque uno lo trovi girato per terra possa leggere, o in alto o in basso. Un po' come la scritta ambulanza, che è scritta al contrario per vedere uno specchietto. Ecco, più o meno. Non so se avete capito. Se non l'avete capito, andate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, e capite sicuramente. Ciao, per ricordare il nostro amico Luca, anche lui scomparso a 30 anni, gli amici di sempre del gruppo Scout di Garlasco organizza da 6 anni una caccia al tesoro. Bella una caccia al tesoro, no? E poi abbiamo organizzato una festa per pubblicare le poesie di un nostro amico che è mancato. Busta vive ancora in Rock on the River. Claudio, immagino che Rock on the River sia il titolo della raccolta di poesie. Quando andavo a scuola è morto un mio amico, per ricordarlo l'ho messo come centroavanti della squadra di calcio in un videogame nel quale io ero l'allenatore. Il centravanti era Filippo e segnò un sacco di gol. Ruggero da Bari. Anche questo non è male come modo. Molto privato, molto personale. Non serve che tutti gli altri lo sappiano. Però se c'hai il tuo amico che non c'è più come centravanti, ogni volta che giochi te lo ricordi. Anche su Twitter scrivono: tutte le mattine accendo la stessa radio che mio nonno Bruno ascoltava durante la mia infanzia. A volte ascolto i suoi dischi. E questo è un altro esempio di commemorazione privata. Però voglio leggervi una cosa che va da un'altra parte, che va in un'altra direzione. Ha a che fare con le persone che non ci sono più e con il luogo in cui vanno le persone che non ci sono più. Se si crede che vada in qualche luogo, per quelli che credono vanno o in un'altra vita o in un altro posto, che è a seconda di quello che si crede, il paradiso, il purgatorio, l'inferno e via nelle altre religioni. Non conosco tutti i luoghi in cui vanno le anime di quelli che muoiono in base alle religioni che si segue o che si pratica. C'è un libricino meraviglioso di Mark Twain che si chiama Viaggio in Paradiso. Racconta la storia di questo vecchio marinaio che muore e compie un viaggio molto lungo per arrivare in paradiso e poi ci arriva. E lì gli succedono delle cose che descrivono a modo suo, a modo di questo vecchio marinaio, di Mark Twain, il paradiso. Il capitolo 4 si apre con lo spirito di questo vecchio marinaio che tenta di volare e ha appena messo le ali. Le ali mi avevano procurato parecchie seccature. Il giorno successivo a quello in cui mi ero unito al coro, mi ero lanciato un paio di volte in volo, ma senza successo. La prima volta feci un volo di una trentina di metri, ma investii un irlandese e lo gettai a terra. Anzi, cademmo in terra entrambi. Poi ebbi una collisione con un arcivescovo che, nemmeno a dirlo, rotolò in terra come una boccia. Ci scambiamo qualche parola vivace e io mi sentii sinceramente mortificato di essere piombato su un personaggio di tanto riguardo sotto gli sguardi sorridenti di milioni di estranei. Mi accorsi che non ero ancora in grado di dominare il timone, il che significava che ogni volta che mi lanciavo non sapevo dove sarei andato a finire. Così, quel giorno decisi di rinunciare alle ali e di andare a piedi. La mattina dopo, di buon'ora, raggiunsi un luogo appartato per fare un po' di esercizi. Salì su una roccia di una certa altezza, presi un bello slancio e mi lanciai. And every photograph of me taken by you, I look like a dog, the family dog. Nell'aula di scienze marinaresche qualche giorno dopo bussano alla porta e mi sento chiamare. È l'aspirante guardia marina. Ora, allievo, io la accompagno al piazzale e lei salirà su quel brigantino. Io lo seguo come un condannato al patibolo e di nuovo sono sotto il brigantino. Sali, mi ordina dandomi inspiegabilmente del tu. Io lo guardo e penso: se è così che deve finire, e sia. Inizio la salita, mi fermo ai soliti 3 metri e poi mi guardo le mani. Avete sentito? Dico loro. Fate il vostro dovere. Inspiegabilmente iniziano a muoversi. Afferrano le sartie più in alto e i piedi seguono una ruota. Sto salendo. Ecco, questo è un altro dei racconti che ci sono in archivio e che è stato raccontato il 23 di novembre. Si intitola Il Brigantino, l'autore era Francesco Di Fonzo. Francesco era un personaggio molto divertente, perché è livornese, innanzitutto i livornesi fanno molta simpatia, sono un popolo a sé. E ve lo ricorderete, secondo me, Francesco, perché è quello che sta sulla torre di controllo del porto di Livorno. L'ho detta malissimo. Però più o meno ci ha mandato anche delle foto in cui lui è seduto su questa plancia di comando e guarda il porto e dà gli ingressi, mi pare di ricordare bene, dà gli ingressi e le uscite ai mercantili che stanno arrivando. Se avete voglia di sentire il suo racconto al live, di cui per inciso ci sarà un podcast probabilmente, e lo dico? Non lo sappiamo, mi sbilancio troppo, hai ragione tu Paolino, non lo dico. Cioè metto un forse, cioè dico solo forse? Forse Ah no, forse c'è un live streaming in diretta sul sito, ma ancora non lo sappiamo. Se avete voglia di sentire il suo racconto, andate sul sito di Radio 24 in fondo e votate il brigantino di Francesco Fonzo. Se invece avete voglia di risentire La pesca del miracolato di Vincenzo Mazzeo, andato in onda il 22 dicembre, ascoltatevela e poi votatela. Arrivati al molo ci aspettavano alcuni degli albergatori e gestori di ristoranti che avevo sentito lamentarsi la sera prima. Si davano di gomito. Ognuno di loro si prese una cassetta di ricciole, pagandole a un prezzo che la faccia cotta del vecchio pescatore approvò con un largo sorriso. Ritornammo a casa in completo silenzio. Poi il pescatore si fermò sotto l'ombra di un albero di ulivo, che a quei tempi era ancora presente nel vecchio borgo, e in dialetto mi disse: «Sai com'è? Tengo famiglia». Forse io, che oramai lavoravo in una città del nord, in quel momento non capii bene che questo era il motivo per cui aveva tanto tentennato prima per portarmi a fare quella pesca. Per alcuni anni poi d'estate mi immersi in quel posto e notai che solo dopo molto tempo la ferita inferta al mare si rimarginò. Capitò alle volte poi che al tramonto mi ritrovassi a bere una birra con il vecchio pescatore. Ecco, questo racconto invece si chiama La pesca del miracolato e raccontava di questo pescatore con cui Vincenzo andava a pescare al suo paese, che mi pare fosse in campagna, non ricordo bene. Ricordo che Vincenzo, Margherita, tu ti ricordi? Vincenzo non è un sindacalista, è un signore... Niente, vabbè, ormai si confondono, d'altra parte siamo... Oggi vi dico solo che siamo alla puntata numero... Te la ricordi, Margherita, la puntata di 196. Quindi insomma si confondono i numeri, i volti e i nomi. Però il racconto invece me lo ricordo molto bene. Lui andava a pescare con questo vecchio pescatore che a un certo punto tirava fuori delle lattine di Coca-Cola che aveva riempito di polvere da sparo, e le buttava in mare e pescava i pesci che rintronati erano saliti in superficie. Ma a un certo punto aveva rintronato anche un subacqueo che si trovava lì vicino, e non solo l'aveva rintronato, ma poi gli aveva chiesto: senti, già che ti senti bene, puoi andare giù a pigliare le riccioli che sono rimaste sul fondo? Si chiama La pesca del miracolato, l'autore Vincenzo Mazzeo, è andato in onda il 22 di dicembre. Chiudo invece con qualche messaggio che è arrivato a proposito del racconto Operazione Fernando e su Fernando. Sandro se n'è andato come Fernando, scrive Luisa, e io lo ricordo e lo ringrazio tutti i giorni alzando gli occhi e guardando il tetto in legno che ha costruito a casa mia. E poi ancora Marco Davarese scrive: per ricordare un amico e un bravo podista mancato da giovane in un incidente stradale, ogni anno organizziamo una corsa con in palio un trofeo a lui dedicato. E vabbè, e questo è un trofeo sportivo come molti tornei e memoriali. A volte sono successe cose particolari che ci fanno pensare che lui sia lì con noi. Marco Davarese. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche il programma di oggi, che sono Paolino Corleoni, Margherita Ina e Luigi che ha scritto il racconto. Vi lascio non con Chiedo Asilo, ma con di fatto una versione anticipata di Focus Economia con Sebastiano Barisoni e in studio anche Raffaella Calandra. La storia di oggi era la storia di Luigi e parlava di commemorazioni. Quella di domani è di Stefano e parla di passioni tramandate ai propri figli. Avete mai visto viaggiare una palla da rugby? La sua forma ovale la fa sembrare un proiettile. Nel rugby la palla va passata solamente indietro, questo lo sanno tutti. Ma con il piede la si può calciare in avanti e poi cercare di riprendersela. Il modo migliore è calciare alto alto, così avrò tempo per andare a placcare l'avversario che la prenderà al volo, se riuscirà a prenderla al volo. Stavolta hanno fatto così con me.